Attenzione, attenzione! Dalle frequenze radiofoniche di Rock FM sta per cominciare pane, burro e rock and roll, la colazione che dà assuefazione. Amici ed amiche già incarogniti a manetta, restate con noi. Ce la faremo fino alle 9 del mattino, state in una botte di ferro. Sigla! Grande spadino dito veloce. Un buongiorno dall'Ariele, ci siamo anche oggi! Rock and roll. E chi l'avrebbe mai detto, eh? La tua colazione rock. Beh, io non l'avrei mai detto, sì. Pane, burro e rock and roll. Reduci da una nottataccia, ma qui pronti come non mai. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Yo. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Un servizio studiato a tavolino, nei minimi particolari, nel tentativo di trasformare quella carogna che ci avete sulle spalle in un sorrisino, in una risata mi sembra troppo, in un ghigno, ecco, in un ghigno malefico, questo potrebbe essere, che potrebbe avvicinarsi più alla verità. Una buona giornata dall'Ariele, qui negli studi di Rock FM con il buon Spadino, come ogni giorno in attesa in questi primi minuti dell'arrivo di Roberto Friccantoni, la nostra guest star del mattino di Pane, Burro e Rock and Roll. Andiamo a cominciare la 33esima puntata. Segnalo all'amico Carlo della tabaccheria che c'è uno strano gioco di numeri oggi, perché sapete che conto sia le puntate da quando abbiamo ripreso la stagione a settembre e sia invece da quando abbiamo iniziato proprio Pane, Burro e Rock and Roll. Quindi la puntata di oggi è sia la 33 che la 111. Vorrà dire qualcosa? È qualcosa per forza, vorrà dire. Dio vuole dirci qualcosa e noi non ce ne rendiamo conto? O forse il diavolo? Se c'è qualche numerologista là fuori che ci sa dire la relazione tra 33 e 33 e 111, non so, poi magari non vuol dire niente. Vi ricordo anche che il nostro numero di SMS termina con 7777. Ho dormito poco, ragazzi. Prendetemi così quest'oggi, va bene? Ne abbiamo di stupidate da fare, da combinare, tante rubriche per tenervi compagnia. Ma soprattutto, ragazzi, qui si spinge duro sull'acceleratore del rock and roll. Buon risveglio, buon traffico. Anche quest'oggi il giorno passerà dalla notte al sole e noi saremo lì come testimoni. Oggi te l'ho messo malissimo. Rolling Stones! Yes, yes. è vero che sono stonati i cori. Anche Keith Richard gli fa i cori stonati e mica si arrabbia nessuno con lui. Non posso farli anch'io? Vedi, mi sono ripreso al volo. Che storia rock and roll. Citando Elio, visto che Freak non c'è ancora, se no gli viene la carogna anche lui. Che storia, ma che storia. Che storia, ma che storia. Oh, bene, bene. Vi ricordo il numero di SMS per partecipare, costruire, come si può dire, mettere il cemento sui mattoni di Pane, Burro e Rock'n'Roll. 335-100-7777. Stamattina, visto che purtroppo, questa mattina non sono tornato nella mia casa, non sono andato nella mia casa a dormire, e no, purtroppo non è che sono andato fuori perché ho trovato una bella ragazza e sono andato in giro a spassarmela, no, ho solo cercato un rifugio milanese di quelli un po' accampati alla buona per dormire qualche ora per arrivare bello fresco da voi. Allora stamane, tutto bello conciato male in macchina, sapete che immagine mi è venuta in mente? Non so perché, poi magari non c'entra niente. Mi sentivo un po' Michael J. Fox di quei film, sai quando fa... Che fa tipo tre lavori perché fa un po' lo yuppie e allora tipo non dorme o si cambia in ascensore, ecco. Oggi io... Tra l'altro chiederei all'emittente Rock FM, se fosse possibile, una bella doccetta qua negli studi. Tanto abbiamo un paio di studi vuoti, potremmo farci una bella doccia, non dico con l'idromassaggio, una doccetta, che uno così arriva bello alle 6:30 del mattino, faccio una bella doccia fredda e mi ripiglio, capito? Quindi oggi sarò Michael J. Fox. Mi è sempre piaciuto un casino, cioè adesso, eterosessualmente parlando, va bene. Lampione crepuscolare, Lely. Oh, vi vedo belli svegli, un fracasso di SMS già all'inizio. Complimenti. Il primo saluto subito a questo SMS. Oramai mia nipote sa la sigla di Pane, Burro e Rock'n'Roll. Merito la patente davvero rocker. Ciao Elena, nipote. Ciao Lariel, ciao il Freak, da zio Pampurio. Caro zio Pampurio e cara nipotina Elena, potremmo, e attenzione, utilizzo il condizionale, consegnarvi una patente da vero rocker solo se la piccola Elena ce la canta in diretta. Sai che fico? Così la riutilizziamo al volo. Bricantoni, arriva o non arriva? Dai, su. Si chiama Sting e questa è la sua Englishman in New York. Ragazzi, fino alle 9 vi spacchiamo le orecchie. Beh, insomma. I don't drink coffee, I take tea, my dear. Like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Thank you. your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Il consueto ringraziamento agli Eurostar che ci permettono giorno dopo giorno di avere qui con noi nei nostri studi Roberto Fricantoni. Buondì! Buongiorno, non per smentirla, ma oggi sono arrivato in automobile. Addirittura? Sì. E ha trovato parcheggio qua sotto? No. Esatto, per quello che la vedo particolarmente nervosetta quest'oggi. Vedi quel carro attrezzi che sì, sta portando via quella vetturetta? No, non è la sua. È la mia tragedia. Stia tranquillo, lei pensi soltanto al servizio a favore dei nostri radioascoltatori e delle nostre radioascoltatrici, l'almanacco del giorno che fu. Mercoledì 17 ottobre, oh. È il 17 che un po' mi inquieta. No, non si spaventi perché iniziamo con una delle notizie che lei ama. Era il 1888 quando il suo amico Thomas Edison presentò richiesta di un brevetto per il fonografo ottico. Il primo cinema. Oh, ecco, ha visto. Chissà se gli è stato accettato. Il brevetto. Perché non gliel'avrebbero dovuto accettare? Ma non si sa mai. A volte facevano i pidocchiosi, dice. No, a volte non ci si intendeva con l'ufficio brevetti, lo so benissimo. Passiamo a una notizia riguardante Al Capone. Al Capone, il famoso gangster. Assolutamente sì, era il 17 ottobre del 1931 quando venne condannato per evasione fiscale. Attenzione, perché di evasione fiscale si può davvero perire. Può essere. Lei ha paura? Sono un po' preoccupato perché il mio ultimo yacht, che si chiama Hakim, lei sa, il contrario del mio nome che è Mike, il contrario è Hakim, ho avuto una botta di genio chiamarlo Hakim. Che glielo controlli, ecco, no? Non vorrei si venisse a sapere, lei sa, DJ Ariely, lo dico piano, che io ho dichiarato 1000 euro guadagni esca da questo corpo. Colpo di scena. Mike, buongiorno. 2000 euro. Perché passiamo 3000 a un... euro passiamo di guadagni a... l'anno. Colpo di scena. Ricorrenza che le piacerà parecchio. Il debutto proprio quest'oggi nel 67 a Broadway del musical Hair. Pelo. Capelli, capello. Pelo. Si può tradurre anche con pelo. Sì, dice, pelo. Va bene, il grandissimo Air. E chiudiamo invece con un'altra notizia che so la farà rosicare di invidia. Il 17 ottobre del 79, Madre Teresa di Calcutta ricevette il premio Nobel per la pace. Non dica cattiverie su Madre Teresa di Calcutta, sarebbe politicamente troppo scorretto. Questa suorina albanese. Sì, basta. Anch'io voglio il Nobel! Maestro, lo avrà! Ci conto! E beh, che c'è? She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking and destruction lay around me from a fight I could not win. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. listen and fill my heart with life. There is no strength in numbers, have no such misconception, but when you need me, be assured I won't be far away. Thus having spoken, she turned away, and though I found no words to say, I stood and watched until I saw her black cloak disappear. My labor is no easier, but now I know I'm not alone. I find new heart each time I think upon that windy day. And if one day she comes to you, drink deeply from her words so wise, take courage from her at your prize and say hello for me. Fricchettone, un pezzo degli Uriah Heep, Lady in Black. E impressa sta canna, dai. Mi ricorda sempre, forse sarò logorroico che lo dico sempre, ma mi ricorda qualche serata al Nautilus di Cardano al Campo, un divertimentificio che c'è dalle mie parti, nella Varese che conta. E ai tempi d'oro, quando scattava verso fine serata Lady in Black, Ci si sedeva tutti. Io no, perché la mettevo, sapete, io ho sempre fatto un po' la rockstar, io, quindi stavo in console. Tra l'altro è fichissima la console del Nautilus. Vabbè, un saluto agli amici del Nautilus di Cardano al Campo. Occupiamoci di uno dei più grossi problemi di questa trasmissione radiofonica. Non mi tirerò indietro, la colpa è mia. Ho fatto una stupidata, lo ammetto, ne faccio tante, ne ho fatte tante nella mia vita, ma forse questa è una delle più grosse che ho fatto. È una trasmissione questa che fa scattare dei tormentoni, grazie alla radio, grazie all'immaginazione, vi facciamo affezionare a cose, accadimenti che voi non potete vedere ma che sentite vostri. Uno dei primi tormentoni lanciati da questa trasmissione era l'omino che faceva jogging. Nel corso degli ultimi weekend di serate che ho fatto, io non conto la gente, cioè ho avuto più gente che mi chiedeva dell'omino che fa jogging che non che mi facessero i complimenti per la trasmissione. Questo per farvi capire l'entità del problema. Perché ormai un paio di settimane fa, io stupidino, visto che ormai pensavo di essere suo amico, anche se lui non lo sapeva, perché lui non ci ha mai visto, era là che correva e basta, in via Pisani, ho aperto la finestra e gli ho gridato perché volevo diventare suo amico io, e ci avevo messo del buono io. E invece si deve essere offeso, si deve essere un po' spaventato, perché non c'è più, ragazzi, ufficiale. Cioè, ormai non posso, non spero neanche più. Non c'è Spadino, guarda. E tra l'altro preoccupazione si sente fino a Napoli. Il nostro Gianfranco, gruppo d'ascolto napoletano, che sente Pane, Burro, Rock and Roll tutte le mattine, mi scrive: oh granché, ma io penso, se lo omino royoghi nupas, lo leggo così perché è scritto così, se lo omino do yoghi nupas Q sotto la radio, è perché tu le fa mettere a paura. E Kill sicuramente lui ha cambiato strada per correre a prima mattina. Hai ragione, Gianfranco. Però allora mi aggancio a un altro SMS di Andrea, perché qui al nostro SMS arrivano commenti sull'omino che fa jogging che non c'è più. Lui commenta: più tardi vado a correre e anziché andare alla montagnetta di San Siro, se vuoi vengo lì in via Vittor Pisani, può servire? Patentato 57. Cazzo, Andrea, questa è un'idea geniale, Secondo me. Io lo lancio l'appello: se c'è qualcuno là fuori che fa jogging, visto che noi di Pane, Burro e Rock and Roll abbiamo una religione che ci impedisce di praticare certi sport e non possiamo farlo, però sarebbe bello avere il gruppo d'ascolto che fa jogging lì in via Vittor Pisani, che io vi vedo, e con il mio nuovo megafono fiammante posso anche gasarvi di bestia. Forza ragazzi, correte, correte, smaltiamo tutta quella birra che vi siete tracannati ieri notte. Guarda che vi gaserei a manetta, eh. Ragazzi, il rock and roll è con voi, correre, correre, correre. Ah, Andrea, hai avuto un'idea geniale. In via Vittor Pisani, altezza di Piazza della Repubblica, noi abbiamo la finestra che si affaccia. Non vedo l'ora che qualcuno venga a correre, così vi gaso col megafono e magari facciamo incazzare anche i vicini del piano di sopra. Qui c'è l'Ariele, direttamente da Varese, il vostro speaker preferito, o no? No. Salve Giovanna. Ciao. Il mio nome è Roy. Il mio Ariel. Sei del Texas? No. No, di Gallarat. Si chiamano Cream. Questa è roba forte, ragazzi. Insieme a Mr. Slowhead Clapton. Questa è White Room. Uno dei brani con l'attacco più fico del mondo. Strom! Tu. Sentite qua? È ancora meglio di Traku Traku. Senti? In a white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold payments, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Dawnlight smile on you leaving my contentment. I'll wait in this place where the sun never shines. Platform ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station. Tired starving. vivere oggi. Lavoro, impegni e finalmente... Pane, burro, rock and roll. Perché ti vuoi bene.